il sosia ha quindi imparato ad ascoltare. Per quanto insopportabili gli risultino quei crepuscoli da confessore, in essi ha scoperto la propria vera natura di attore. Lui ascolta bene. Lo legge negli occhi dell'uomo o della donna che si allontana reclinando una testa acquietata con la grazia di un uccello che vira sull'ala. Ti ho ascoltato. Pensa, avanti un altro, avanti un altro. Ma non dà a nessuno di loro l'impressione di aspettare l'uomo o la donna che segue. La scoperta del proprio talento lo esalta. Non è più un sosia di fortuna, è un attore di genio. In bocca a lui, i discorsi di Pereira acquisiscono forza e sincerità. Se Pereira parla in modo così appropriato, dicono in tutto il paese, è perché ascolta bene. Se tocca il cuore di tutti, è perché ognuno di noi ha un posto nel suo cuore. L'immagine del dittatore acquista una sostanza di santità. In ogni casa, il suo ritratto rifulge accanto a quello di Cristo Re con le ciocche bionde. Neppure una volta, tuttavia, il sosia cederà all'ebbrezza della parte. Mente fredda, silenzio eloquente, testo padroneggiato. Non sarà mai tentato di prendersi per Manuel Pereira da Ponte Martins, dittatore santificato. Ma non sarà più per paura, sarà per la convinzione del proprio talento. Il seguito va da sé. Con il passare del tempo, il sosia si stancò. Non di recitare la commedia, ma di recitare sempre la stessa. E in un teatro che finì per reputare angusto, lo stesso testo, la stessa regia, le stesse tournée, nelle stesse città, lo stesso pubblico, le stesse ovazioni. Ambisce ad altre parti, su altri palcoscenici, sotto altri cieli. L'America, certo! La vicinissima America del Nord, così piena di promesse. Il cinematografo, magari. Certo, il cinematografo! Il sosia emigrò negli Stati Uniti d'America. Prima di andarsene, scelse un sosia che gli assomigliava come un uomo può assomigliare a un altro, con quell'epsilon di differenza. Nessuno notò l'epsilon, poiché il nuovo sosia aveva seguito in tutto e per tutto la formazione che il precedente aveva ricevuto da Pereira. Credette di essere stato assoldato dal dittatore in persona, subì lo stesso addestramento terrificante, svolse il proprio ruolo di pseudo-presidente prima con la stessa apprensione, poi con lo stesso entusiasmo, per provare infine la stessa noia e farsi a sua volta sostituire da un sosia che, dopo aver attraversato gli stessi stati d'animo, passò il testimone al sosia seguente. Eccetera.